Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Si è svolto lunedì scorso a Roma Trasportiamo l'Italia, uno degli eventi preparatori del G7 dei trasporti di Cagliari, di cui tra l'altro abbiamo parlato sempre qui a Container la scorsa settimana. Un evento a cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Albo degli Autotrasportatori, delle associazioni di categoria, i sindacati, insomma tutti i principali operatori del settore. Al centro dei lavori i temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, la mobilità connessa e le smart roads analizzati nella prospettiva del trasporto merci e dell'autotrasporto. Questo è un momento molto intenso per la mobilità in generale, sempre più al centro delle politiche comunitarie e nazionali. In Italia, dopo la forte crisi che ha toccato il settore del trasporto merci, si stanno portando avanti numerose strategie di rilancio, sia per affrontare questioni come quella della concorrenza sleale, sia per colmare le inefficienze logistiche che costano, pensate, ogni anno milioni in termini di PIL perso. Le interviste raccolte dal collega Giorgio Stamatopoulos propongono una sintesi di ciò che è emerso lunedì a Roma. Cominciamo con Massimiliano Sartori, autore dello studio realizzato da Ambrosetti sulle inefficienze del sistema logistico italiano e sull'impatto della piattaforma logistica nazionale. Dal punto di vista della logistica, le inefficienze che noi abbiamo identificato sono di tre tipi. Uno che attiene la parte burocratica normativa, la seconda è la polverizzazione degli operatori, quindi la pluralità e la differenza dei soggetti che operano all'interno della logistica. Terzo, infrastruttura, che significa andare a identificare quali sono quei colli di bottiglia di infrastruttura all'interno del paese, da un porto a un interporto a una ferrovia a un'autostrada. Le cifre parlano di 25-35 miliardi di euro di inefficienza complessiva, che di fatto è un'inefficienza che noi paghiamo ogni anno, risultato di tutte le inefficienze accumulate negli ultimi 10-15 anni, sia sul lato portuale, sia sul lato ferroviario, sia sul lato autostradale. L'aspetto, diciamo, tecnologico digitale gioca un ruolo? Assolutamente. Tutta la parte che attiene a come i sistemi parlano tra di loro, tutta la parte di informazioni tra trasportatori e porti, tra interporti e operatori logistici. Abbiamo valutato che un'applicazione corretta di sistemi di logistica digitale su livello di quelli europei possono ridurre quelle inefficienze di 7-10 miliardi. È il frutto di una mancanza del privato o è anche il pubblico che potrebbe fare di più per colmare questo gap? Non esistono casi di piattaforma logistica nazionale intesa come la sta realizzando Wirnet all'estero. In Italia noi abbiamo molte autorità portuali, ad esempio, quindi a livello di comparazione non esiste un qualcosa di simile all'estero. E questo è un'iniziativa di Wirnet e del Ministero per fornire a tutti gli operatori, che sono plurali in Italia, più piccoli e non hanno a volte neanche la capacità di investimento per fare questo salto digitale, per fornire una piattaforma con cui aggregarsi e riuscire a fare quel salto di qualità per competere a livello europeo. Siete riusciti a quantificare quanti soldi appunto si perdono? Prima accennava una cifra importante. Sì, scenario migliore tra i 7 e i 10 miliardi di euro da qua ai prossimi 5 anni, che corrisponde di fatto a un valore pari allo 0,5% del PIL italiano, significativo, e che corrisponde a un 7% del PIL del sistema logistico italiano. Come sottolinea Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, ci sono però anche altre questioni che minano l'efficienza di tutto il sistema. La logistica è l'elemento di competitività di un'economia, soprattutto come quella del nostro paese. Nel momento in cui esce una proposta di direttiva che penalizza il trasporto italiano a favore, a vantaggio di quello che viene dai paesi dell'est, deve essere affrontato con determinazione. Parità di regole, parità di opportunità, apertura alla liberalizzazione. Senza questo noi non saremo d'accordo e ci metteremo di traverso e vorremmo insieme al nostro governo supportare questa posizione, ma bisogna che il governo l'assuma. Lei sta parlando del dumping sociale? Sto parlando del dumping sociale che ha ripercussioni sulle operazioni di cabotaggio libero. Quindi libero mercato sì, ma regole. Che è il primo punto del documento dell'alleanza conferenza sottoscritta il 31 gennaio a Parigi da 8 ministri dei trasporti, compresi Del Rio. Rappresentiamo tra il 6 e il 7% del prodotto interno lordo del paese, rappresentiamo circa 600.000 lavoratori, ivi compreso l'indotto. Negli ultimi 5 anni l'autotrasporto italiano è passato da una quota di trasporti effettuati per le merci che entrano in Italia del 32,5%, siamo passati al 12,5%. Abbiamo perso in competitività. Per esempio, perché non applicare lo stesso sistema che si applica ai marittimi sulla decontribuzione, rendendo a livello europeo un costo e un livello omogeneo? Avremmo posto fine a questa situazione che diventa veramente insostenibile e costringe le imprese a delocalizzare oppure prendere del personale, dei conducenti che vengono affittati attraverso cooperative spurie nei paesi, Polonia, Romania, Bulgaria, quant'altro. Vogliamo fare questa cosa? Perché questa cosa impatta anche sui conti pubblici dello Stato italiano, visto che le pensioni sono equilibrate da quello che versano i lavoratori. E il sindacato dei lavoratori ha una grossa responsabilità. Lo vogliamo fare insieme? Noi siamo disponibili. Anche Amedeo Genedani, presidente di Unatras e di Confartigianato Trasporti, sottolinea la necessità di affrontare la questione del dumping sociale, come stanno, tra l'altro, facendo alcuni paesi in Europa. Tutti i vari stati europei, soprattutto della vecchia Europa, quindi parliamo dell'Europa dell'Ovest, si sono inventati a casa loro delle regole per difendere i loro vettori. Principe di tutte la legge Macron francese. In Italia purtroppo non abbiamo mai percorso questa strada e quindi siamo quelli che siamo più attaccati da questi vettori. Quindi subiamo un dumping da questi vettori dei paesi dell'Est che hanno dei costi, oserei dire, inferiori al 50%. Oggi, più di prima, con la presentazione di una proposta di un pacchetto europeo da parte della Commissione europea, se passa questo pacchetto così com'è, l'Italia, oserei dire che l'autotrasporto non finisce, ma quasi, perché saremo costretti tutti o a chiudere bottega o a delocalizzare dove si spende meno. L'Italia ha perso più di 55% dei trasporti internazionali, la Polonia è aumentata del 160%, quindi questi due dati ti danno già il segnale di quello che è la crescita esponenziale dei paesi dell'est e la perdita dei trasporti da parte dei nostri vettori, ma non solo italiani, anche francesi, anche spagnoli, che perdono, ma perdono meno dell'Italia perché questi stati hanno rischiato e hanno portato avanti queste regole. Purtroppo l'Europa sta cercando di allargare le maglie sulle regole del cabotaggio. Prima si poteva stare 7 giorni in Italia e fare 3 trasporti all'interno dello Stato membro. Oggi la proposta dell'Europa dice 5 giorni, ma puoi fare quello che vuoi. Non c'è più limite di trasporti nazionali. Ci possiamo aspettare che l'Italia abbia un peso specifico tale per influenzare queste decisioni che ci danneggiano? Come si suol dire, la speranza è sempre l'ultima a morire. Io reputo che l'Italia debba portare avanti sicuramente in sinergia con Francia, Spagna, Germania, Olanda, Belgio, quelli con cui abbiamo firmato anche a Parigi alcuni mesi fa la strada dell'alleanza, deve fare opposizione a questa regola che vuole passare a livello europeo, che sicuramente sarà forzata dai paesi dell'est. Mauro Bonaretti, capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ricorda come in questi anni si sia lavorato di concerto con gli operatori dei trasporti e dell'autotrasporto in particolare per affrontare alcune questioni cruciali, come ad esempio la sostenibilità e il dumping sociale. È un mondo, quello dei trasporti, dell'autotrasporto e anche delle infrastrutture stradali, nel quale ovviamente il contributo fondamentale è quello degli operatori. O gli operatori, come dire, contribuiscono al funzionamento di questi processi o altrimenti è irrealizzabile, non possono e non sono solamente le politiche pubbliche a determinare i risultati. Con queste associazioni e con questo mondo in questi anni abbiamo trovato una sintonia molto forte sia sui temi della sostenibilità che su quelli dell'intermodalità e quindi abbiamo avviato processi di innovazione molto importanti che credo stiano dando risultati visibili nel nostro paese. Riscoprire il valore sociale delle infrastrutture significa mettere al centro le persone e il lavoro, i bisogni dei cittadini e il fatto che le infrastrutture, la logistica e i trasporti hanno come fine fondamentale quello di migliorare la vita delle persone. La risposta italiana sul dumping sociale è molto chiara. Noi abbiamo una posizione che è coerente con quella degli altri paesi occidentali in Europa, quella della Francia, quella dell'Olanda, quella di altri paesi. Noi vogliamo ridurre il dumping sociale, vogliamo che gli autotrasportatori rispettino le regole e che vengano intensificati i controlli e